Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Meglio i Depeche Mode dei Depressed Mode di Enrico Letta. Poiché la Sicilia non può cambiare, come ha stabilito Tommasi Lampedusa e il Gattopardo, cambierà sì, ma non cambierà se stessa, cambierà l'Italia. C'è stan amico mio che te toglie la multa al comune, parlo di Luigi Urbani. E stiamo scoprendo che i 5 Stelle in salsa o il potere sono esattamente italiani come tutti gli altri. Cioè, stiamo dicendo che secondo voi una madre non può dire "questa domenica non lavoro"? Ma stiamo scherzando? Il lavoro non è una condanna, il lavoro è conquista. Il prodotto interno lardo. Beh, ti do il colpo di grazia, ma lo sai che il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto le Olimpiadi ai videogiochi? Ma questa è una follia pura, dai. Però è incredibile, pensa quanti figli di miei amici hanno qualche chance di andare alle squadre olimpiche. E ricordati, Asgard non è un luogo, è un popolo. Bella, eh? È la sinistra. Non bastavano i piedi di Chiara Ferragni messi in pubblico, in pubblico mondiale, adesso anche il feto, appunto. Ma io mi chiedo veramente questi dove hanno la testa. Boh. Abbiamo trovato almeno una cosa in cui Renzi è d'accordo con Gentiloni, cioè su Grasso, perché su tutto il resto è evidente che, nonostante il fioretto democristiano dei due, non sono d'accordo su niente. Auguri! Anche oggi ci avete fatto sognare. Comunque la vita è una questione di scelte. Reach out and touch me. Eccoci, popolo dei già svegli, buongiorno. Qui al mio fianco, metaforicamente e spiritualmente, il comandante Mario Giordano, direttore del TG4, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E intorno a noi deflagra lo scenario della battaglia europea, intorno alla Catalogna con profughi. Non accadeva, pensate, dagli anni 30 che qualche per motivi politici qualche dirigente politico dovesse cambiare paese in Europa. Sicuramente la Catalogna tiene banco, ma tiene banco la Sicilia, come abbiamo visto, metafora dell'Italia e anticipazione delle elezioni politiche. E poi la cronaca con cose pazzesche: un genitore ermafrodito scovato da Lino Milan per La Verità, e l'outing di Kevin Spacey, Mario. No, ma gli hai dato l'apertura del tuo TG4? No, gli ho dato un titolo però ieri sera, ma non l'apertura, no. L'apertura l'ho fatta sulla manovra economica. Allora, dici prima di Kevin e poi dacci un assaggio sulla manovra. Ma sì, più che Kevin a me colpisce ormai la... Hanno sospeso House of Cards. Sì, hanno sospeso House of Cards, sarà l'ultima stagione quella. Ma mi colpisce la concentrazione dei fatti, perché ieri avevamo, oltre al buon Kevin, c'era il seguito, l'ingigantirsi dello scandalo in Gran Bretagna, 12, 13, 15 ministri, tette di zucchero, il sex toy, quindi più c'è il regista italiano lanciato dalle Iene, anche lì che sta molto crescendo. Ma quella cosa, secondo te, salta fuori questo nome? Io lo sto aspettando, perché insomma sarebbe la svolta, un'altra svolta importante, comunque testimonianze mi sembrano, adesso io le ho viste da telespettatore, non so nulla di più di quello che, però insomma mi sembrano tutte ben circostanziate, quindi le Iene già lo sanno? Ripeto, non ho informazioni. No, secondo te però, a naso, secondo me sì, conoscendo insomma come lavorano, anche il livello di controlli preventivi che ci sono su queste cose, secondo me sono andati lì, insomma qualcosa di chiaro c'è, per cui anche in Italia ci abbiamo un caso pazzesco, quindi tre cose insieme. Adesso infatti stavo aspettando stamattina, perché non è ancora uscito lo scandalo nuovo, sono anche un po' deluso va bene, nuova... Allora godiamoci il fritto misto con gli U2. En cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la justicia. Complete Surrender, serve la voce di Bono, il sound epocale di una grande musica europea per raccontare il procuratore che annuncia le imputazioni per tutti i dirigenti del governo autonomo della Catalogna che ha proclamato la Repubblica e poi sono fuggiti, pensate. E Gnocchi, Gene Gnocchi, parla di Pandoro e referendum. In fondo però parliamoci chiaro, perché si fa tanto un gran parlare di questo. Qual è la conseguenza fondamentale, unica di questo referendum? Qual è? Lo sai? Che al di fuori di Lombardia e Veneto, nel resto d'Italia, il Pandoro e il Panettone saranno considerati cibi esotici. Ecco, più o meno come il sushi. Questa sarà l'unica conseguenza. Scusa Mario, ma è scomparso. Il primo giorno Zaia ha detto autonomia, statuto speciale per il Veneto. Poi niente. È scomparsa la parola nord dalla Lega e quindi si è fatto no, ma io credo che insomma il voto, sono convinto che quel voto sia un fatto rilevante, che non è che sparisca così. Certo che in questo momento come dire, mi sembra un momento di allora era chiaro che non c'erano conseguenze immediate, meccaniche, è un valore politico, però hanno un po' rallentato anche perché adesso entra in scena questa settimana la Sicilia e quindi si sono insomma un po' di incroci che hanno consigliato probabilmente di rallentare un po'. Grillo su Berlusconi. Non ci crede più lui è sempre stato il principe della sola, diciamo. L'ho sentito lì a Capri, ha fatto battute del luglio del 93-94. Ora le donne, ragazze. Lui vende bava, no? Vende desideri, vende sogni, ma adesso si vede che non ci crede neanche più lui. Sempre sofisticato. E Salvini parte per la Sicilia per le regionali e con un comizio che sarà separato, saranno a Catania lo stesso giorno lui e Berlusconi, ma non nella stessa piazza, mica male. Ragazzi, si parte, libro, computer, telefono, littorina, gasolio, e si parte non per Pechino ma per Agrigento. 9 ore di percorrenza, buon viaggio. Salutiamo anche Renzi con il suo Intercity e gira per l'Italia. La littorina da 9 ore contro l'Intercity, Mario, i simboli. Però adesso al di là del fatto uno può pensare come, però questo è vero, cioè che in Sicilia uno per andare da Palermo a Catania ci mette da Malpensa ad Abu Dhabi, cioè ci mette tanto quanto uno, no, ma giuro, ho fatto il caso. Oddio mio, è vero. Ci mette tanto quanto andare da Abu Dhabi. Ma guarda che è una cosa pazzesca, anche perché non è che in questi anni sono mancati i soldi, i fondi infrastrutturali. Quante volte abbiamo sentito la rivoluzione del ferro, la cura del ferro, europei, sì. La cura del ferro, cioè, no, abbiamo sentito, e ancora oggi per andare, non parliamo poi delle autostrade, che non c'è un'autostrada in cui non ci sia un ponte, costruiscono il ponte e il giorno dopo crolla. Cioè la regione, a proposito di autonomia, quando io sento parlare di autonomia, infatti io ho grandissimo rispetto, tu lo sai, l'ho detto anche qua per il referendum, lo dico anche, sono andato a votare, ho votato sì, quindi, però io dico anche attenzione, perché la Sicilia, l'autonomia è un modello, un modello da seguire. La guerra dei treni continua con Renzi, ve l'avevo detto, ma adesso abbiamo l'audio. Renzi, fai il capotreno. Gentili clienti, abbiamo il piacere di informarvi che arriveremo alla stazione di Roma Termini con 25 minuti di anticipo. Segno evidente che il treno PT è sempre avanti. Vi ringraziamo di aver scelto il treno PT e vi invitiamo a farlo anche nel marzo 2018. Grazie. Mario, ma ti piace questa cosa di Renzi? L'hai messo nel TG, Renzi Capotreno? No, ma sì, Renzi, ma in questo come... Non l'hai messo, l'hai censurato, noi te lo facciamo sentire. Non l'ho messo, come non abbiamo messo poco i fischi con cui Renzi è stato accolto in qualsiasi posto d'Italia dove è andato. Diciamo, l'abbiamo fatti sentire poche volte, si sono sentite poche, ma in qualsiasi stazione dove lui sia andato... Ma come te lo spieghi questo fenomeno? È strano, cioè è incredibile, non è mai accaduto a nessun politico italiano. E nessun politico italiano, ma perché purtroppo noi sul treno di Renzi ci siamo già saliti alcuni anni fa, anche con molte speranze, anche con molti italiani ci credevano davvero. Ricordo l'epoca delle conferenze con i pesciolini rossi, no? Quando diceva che le auto blu finiranno domani, a proposito della notizia... Adesso c'è il boom, raddoppiate, 15.000. Esatto, quindi noi sul treno di Renzi purtroppo ci siamo finiti, e purtroppo siamo anche finiti andati per i prati con il treno di Renzi anziché stare sui binari, e quindi ormai tutto quello che dice è come quei pugili suonati, che tutte le cose che fanno alla fine si ritorcono contro adesso. Quindi anche quella che una volta sembrava la battuta, la capacità di rompere gli schemi, oggi sembra insopportabile e fastidiosa, perché gli italiani pensano che il treno lui l'ha già guidato. E il treno diventa luogo di battaglia politica a sinistra con l'attacco di Tommaso Montanari, che da Gorà martella Renzi proprio sul convoglio. Io, come molti altri italiani, francamente non riesco a vedere più nulla di sinistra nel Partito Democratico. Il linguaggio è sempre molto chiaro, e nonostante le intenzioni chi lo usa. Renzi, che nel treno dice «signori clienti, il PD sta arrivando a Roma», dà l'idea di questa mutazione forte. Non ci sono più cittadini, ci sono clienti destinatari di uno storytelling, di un marketing elettorale. Io non sento in Italia discorsi come quelli di Corbyn, di Iglesias, di Papa Francesco. Papa Francesco proprio a fagiolo, perché è l'ultimo grande leader. E allora sentite, a Santa Marta bisogna sporcarsi le mani. E per questo Gesù sempre era lì con la gente scartata. C'erano lì i poveri, gli ammalati, i peccatori, i lebbrosi, ma erano tutti lì. È una grazia per il popolo di Dio avere dei buoni pastori, pastori come Gesù, che non si vergognano di toccare la carne ferita, che sanno che su questo non solo loro, anche tutti noi saremo giudicati. Mario, che suggestione, mette i brividi, eh? Non si vergogna di toccare la carne ferita. No, certo, ma vedi, io sentivo prima a proposito di sinistra, di chiedere di cosa, ti ascoltavo ieri e poi sentivo stamattina che riproponevi le cose sulla domenica, per esempio, no? Sul lavoro di domenica. Cioè, voglio dire, lavorare di domenica, io sono anni, tu lo sai, che nei giornali c'è un eccesso di lavoratori di domenica. Quello... cioè tutti vogliono, no, ma guarda che discorso, cioè, ma tutti vogliono, io alla domenica ho troppe persone, al sabato che nessuno vuole lavorare, ma la sono... domenica vogliono lavorare. Però sai, ma che perché? Sono privilegi ottocenteschi che resistono nei giornali, quei contratti non ci sono e non ci saranno più, capito, da nessuna parte. Problema, sei l'ultimo sacerdote di un tempo finito. No, ma non sono sacerdote, dico solo che è un'ipocrisia. Certo che la persona, come quando si dice che i giovani non vogliono lavorare, io non sono convinto che oggi, non è vero che i giovani non, oggi i giovani vogliono lavorare, il problema è che non li si vuole pagare, il problema è che si vuole far lavorare senza pagarli o sotto pagare, così si vuole far lavorare la domenica senza farli pagare, è ovvio che la gente non paga, ma questo è contrario, ogni cosa è contrario anche alle regole del libero mercato inteso in senso positivo. E quindi questo, non so se è un discorso di destra, di sinistra, non so se è un discorso che piace a Papa Francesco oppure no, non lo so, ma io credo che oggi la realtà sia questa, cioè il concetto è che ti vuoi far lavorare le persone senza pagarle. Allora mi sembra un tema di una serietà e di un'attualità drammatica. Non c'è dubbio, e chiudiamo con uno scandalo su cui veramente si dovrebbe indagare. Il cacciatore di plichi che raccattava schede per votarle, pizzicato da Filippo Roma con una testimonianza nelle Iene. Io ero un cacciatore di plichi. I plichi sono le lettere che arrivano dal consolato a casa degli italiani in Germania. Dentro c'è una scheda elettorale, devi riempirla, votare la persona favorita, firmarle, richiudere la busta e mandarla al consolato. Il consolato poi li manda in Italia. Quello che voleva l'onorevole erano tre cose: raccogliere plichi, trovare plichi, comprare plichi e, se c'era bisogno, rubarli. Beh, bello, un grande ammaestramento. Mario, cosa rimane fuori dalla nostra summa? Possiamo mattina. Intanto a questo proposito dire con buona pace del buon Tremaglia, pace all'anima sua, che il voto degli italiani all'estero si è trasformato in una cosa terribile. Cioè questa parte che è un'onorevole inclusione che era più ballo è sempre lo stesso, quello della Parentopoli, no? del figlio piazzato lì, e quindi ci ha tirato fuori delle figure che, oddio, a noi hanno fatto anche comodo perché ci siamo molto divertiti in questi anni. Però, un riso amaro. Ecco, è rimasto fuori. Cos'è rimasto fuori? È rimasto fuori a me lo schettino di Barcellona, la Catalogna, l'uomo che ha fatto peggio dei Savoia. Sì. cioè il nostro presidente catalano che è fuggito dopo aver armatevi e partite, combattete, e poi è fuggito in macchina di notte a Bruxelles. Io credo che quella sia una pagina delle più quindi sei d'accordo con me, mamma mia. Ma ripeto, Schettino sulla barra, ci ha lasciato a scatenare nelle macerie e poi se n'è andato a Bruxelles, casualmente a Bruxelles con 5 ministri lasciando gli altri là, una cosa che non si è mai vista. Tra l'altro io non lo so, uno anche qua la può pensare come vuole sulla rivolta catalana, ma una volta che hai messo in piedi questa chiamando tutte le persone in piazza, questa manifestazione, questo movimento così grande, poi girarsi e pensare solo a salvare il culo, per dirlo con un eufemismo e un francesismo, è veramente una roba che in confronto Schettino, onora Schettino rispetto a Puigdemont. Ancora un pugno di secondi per le piccole storie che ci piacciono. Sara Manfuso, modella, era la fidanzata di Da Torre, che è uno dei leader dei Bersaniani, e praticamente ha lasciato Da Torre e oggi annuncia il fatto che si candiderà, potrebbe candidarsi con il PD. E sono quelle cose meravigliose, quei cortocircuiti. Sì, tra l'altro dice non sono la nuova Boschi, cioè cerca di distanze dalla Boschi, questo la dice lunga anche sul treno deragliato di prima, no? Cioè che non diventa più un modello positivo ma un modello negativo. Però non mi permetto di fare altre battute sulla Manfuso, perché sennò poi si rischia che il nuovo scandalo sessuale del giorno potremmo essere noi. Come l'hai definita? Caccia agli streghi. Caccia agli streghi. Caccia e agli continua? Streghi. Ma sì, caccia agli streghi, continua. Ormai lo vedi, vengono fuori cose di 30 anni fa. 30 anni fa diedi un bacio un po' così. Cioè, c'è questa esagerazione folle. Beh, però il regista quarantenne avrebbe fatto qualcosa di più di un bacio. Se è vero, infatti te l'ho detto prima, è che sono qua che rapporti sto aspettando sessuali, che salti fuori il nome per andarci sopra. Le cose vanno raccontate. Però un conto sono i fatti, gli stupri, lì si parla di reali stupri. Poi bisognerà vedere, accertare. Senti, è una materia scivolosa, ma ti propongo questo lodo. Si può dire che non si può accusare qualcuno se non si fa un nome e un cognome? È doloroso, è brutto, ma il accusare senza nome è una cosa inquietante. Dipende se uno lo sa o no, perché sai, tu sai benissimo che facendo questo mestiere tante volte uno ci deve arrivare, quindi servono che vengano fuori, che si creino delle condizioni perché altre persone testimoniano, che si raccolgano altri elementi. Quindi se uno non lo sa e spara a zero, sì; se uno lo sa e raccoglie elementi per tirare fuori una realtà, secondo me no, lo si può fare, lo si è fatto anche tante volte. Però dopo un po' deve saltare fuori, sennò è quello che stavo dicendo. Io se sono no è caccia, che... è caccia. Se no è caccia agli streghi. Se no è caccia agli streghi, è creare un clima in cui qualsiasi cosa diventa condannabile, anche se in realtà non lo è. Grazie a Mario Giordano, è sempre un piacere sentire il suo ritmo incessante la mattina. Strade, e ci sentiamo subito dopo. Ciao. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta '24 mattino. E ora i già svegli, il vostro grande affresco, il messaggio che consegniamo all'Italia la mattina. Eccoci, dicevo, arrivano già dei messaggi, intanto li leggo. Basta col populismo, Giordano cosa può dire della Sicilia, quanti soldi buttati dal suo padrone? Per il lavoro dei giovani cosa pensa, cosa ne sa? Lui giornalista impiegato. E Tino Podda da Semini: Mario, vuoi rispondere una cosa qui a chi dice ma voi siete doppiopesisti? Doppiopesisti in che senso? Perché? Che critichiamo qualcuno e qualcun altro no, che non è vero, perché no, tu non risparmi io nessuno. Guarda, sono 20 anni, cioè parlo con quello che ho fatto e che ho scritto, e tu lo sai, ho scritto Sanguisughe nel 2010 quando Berlusconi era al governo, quindi io, insomma, ho sempre scritto dal 97, scrivo Silenzio si ruba, ho scritto 20 anni questi libri. Senza dire cosa hai scritto della Sicilia, scritto, detto, raccontato. Della Sicilia ho scritto appunto da 20 anni almeno che scrivo, denuncio queste cose, in più, quindi non poi ci sta, quando uno va in radio come quando va in televisione, è giusto che le persone che ascoltino possano criticare. L'altro giorno sentivo che qualcuno se la prendeva con la mia voce, con il mio modo di parlare, e capisco, no? Quando uno va, è giusto che chi ascolta possa criticare. Io credo che la Sicilia sia un grande esempio di mala gestione, a danno dei siciliani stessi, ripeto, a danno dei siciliani, perché di soldi ce ne sono stati un'infinità. Quante volte abbiamo raccontato i pensionati di 49 anni, quante volte abbiamo pensato alle infrastrutture che non ci sono, e quindi alla vigilia delle elezioni mi sembra abbastanza naturale che questo discorso venga fatto. Tra l'altro l'ho usato spesso in queste proprio contro a monito dal nord. Quando si chiede gli statuti speciali, io ricordo che fatto non è solo la Sicilia, perché il Trentino Alto Adige è uguale, la Valle d'Aosta, di cui abbiamo letto e scritto tanto in questi giorni, col Casinò, uguale, con anche lì i vitalizi. No, le regioni, lo statuto speciale in Italia di fatto non ha funzionato. Che hai capito allora, che cosa sta succedendo sui vitalizi? Sui vitalizi sta succedendo che c'è una parte del PD che li vuole mandare avanti a tutti i costi, e c'è una Renzi. Parte sì, una parte che è legata a Renzi, per usarlo a modo elettorale, ma la cosa che mi preoccupa di più, e secondo me sarebbe importante che comunque a questo punto lo si facesse, perché si dà un segnale politico almeno di volontà di farlo. Quello che mi preoccupa molto è che molti del PD dicono: ma sì, mandiamoli avanti, così diamo questo segnale, tanto lo sappiamo tutti che la legge è scritta talmente male che verrà abbattuta. Io non lo so se la legge è scritta davvero così male, il rischio c'è, perché di leggi scritte male dalla legittima difesa in poi ne abbiamo viste tantissime da parte di questa, quindi il rischio c'è. Però io ritengo che oggi, se uno non approva quella legge sui vitalizi in Parlamento, non si può presentare ai mercati rionali alle prossime elezioni a chiedere il voto. Non perché non ci siano temi più importanti dei vitalizi, altri spiegati, ma perché se uno, mentre chiede di alzare l'età pensionabile a 67 anni, chiede di abbassare l'età del vitalizio, come è stato fatto da Sposetti e Zeller nei giorni scorsi, capisce di non sapere in che mondo vive. Perché non si può continuare a chiedere privilegi per sé e sacrifici agli italiani, e se uno non ha capito questo non prenderà mai nessuna decisione nell'interesse degli italiani. Quindi qualcuno quando dice: ma perché il vitalizio non più cosa? No, il vitalizio è la cartina di tornasol, se uno ha capito che deve cambiare registro, oppure se uno continua a star lì semplicemente per difendere i suoi interessi. Questo è fondamentale. La notizia più bella che emerge dai file della CIA ce la segnala il tempo. Senti Mario, perché è una vita che la inseguiamo. Hitler era vivo e scappò in Sud America. Questa è veramente... C'è pure una foto che hanno trovato negli archivi. C'è. Ma anche Elvis Presley è vivo ancora? Ma probabilmente sono lì insieme. Sono lì insieme, certo. Anche Marilyn Monroe. E poi non siamo mai stati sulla Luna. No, ho visto. Però l'hai notata, non ti era sfuggita. L'ho notata, che è l'apertura del tempo, non si può non vedere, è gigantesca sul tempo, e la leggerò con più attenzione, perché appunto l'ho vista sorprendendo. Mi domandavo appunto quale degli altri personaggi che abbiamo dati come non morti siano ancora in giro per il mondo. Allora, una paginata sulla Verità e anche sul giornale e su diversi giornali, sia pure in forma minore, c'è la guerra della Chiesa ad Halloween. Sei d'accordo? Io sì, da mo è una cosa che si fa. Io credo che no, questi giorni... sei d'accordo. Sono d'accordo sul fare la guerra ad Halloween. Io credo che la si debba festeggiare, si debbano festeggiare i santi e i morti, che si debbano festeggiare le nostre tradizioni. Io sono sempre stato contrario alla festa di impostazione, a una festa che non è nostra, che abbiamo importato, che stiamo scimmiottando come tante cose che scimmiottiamo dall'estero. Quindi ai tuoi figli niente dolcetto e scherzetto? No, purtroppo i miei figli ormai sono nell'età che se lo fanno, per cui stasera mia figlia anche mi invaderà la casa con le sue amichette della palla. Lavoro e le zucche, però ciò non mi toglie di essere profondamente con, anzi già vedo per casa girare enormi zucche che girano, però ciò non mi toglie di essere concettualmente contrario. Io credo che noi dovremmo riscoprire, ne abbiamo tante, ne abbiamo straordinarie, non conosciamo le nostre tradizioni piuttosto che scimmiottare quelle anche piuttosto sceme degli altri. Mamma mia, Telesa e Giordano sono come la piadina e la Nutella, incompatibili ma insieme ottime. Ti piace la piadina e la Nutella, Mario? Sì, tu sei la Nutella però. Beh, questa è una battuta di una tale cattiveria. No, sono ferito. No, tu in realtà col tuo Torino hai strapazzato il mio Cagliari, eravamo in vantaggio. No, lascia stare, e con una partita epica avete ribaltato. Senti, ma Mikhailovic, l'hai visto che cosa strepitosa che ha fatto il test, che ha fatto la consegna del tapiro, insomma, con il riconoscimento, gli ha detto: non sapevi che era Anna Frank? Dice: io studio Ivo Andrić. Io studio Ivo Andrić. Sì, è stata una caduta, credo, incredibile, non l'unica di un allenatore che purtroppo ultimamente è un po' suonato come Renzi sul treno. Cosa? Ma che stai criticando il tuo mister? Assolutamente sì, io credo che abbia perso. No, Cairo, non sentire, Cairo, interferenza. Cairo deve sentire, ha fatto una campagna acquisti completamente sbagliata. Niang non era da prendere, l'ha voluto lui, ha sbagliato il modo, ha sbagliato moltissime cose fino adesso questa vittoria risicata e sofferta, ma abbiamo festeggiato per la vittoria col Cagliari in casa come se avessimo vinto l'Europa League, insomma, mi sembra, con tutto il rispetto per la tua gloriosa squadra, mi sembra francamente eccessivo. È partito il siluro di Mario Giordano contro il suo mister, tremendo, tremendo, sono i tempi, adesso lo saluto davvero e ci sentiamo per il GR e dopo di nuovo, 24 mattino, ciao! Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.